Ivan Talarico e Claudio Morici per parlare di freschi buffi e altre trasmigrazioni dell'anima. Reading con canzoni a Roma, all'Auditorium Parco della Musica, 25 gennaio 2019. Ben trovati. Ciao Federico, ciao. Cominciamo descrivendo questo lavoro. Ma Ivan, tocca a te. È un lavoro molto impegnativo che ci proietta molto avanti rispetto a tutto il nostro passato. Finora abbiamo fatto soprattutto reading con canzoni, mentre questo è un reading con canzoni, diciamo, è una cosa nuova. È un reading con canzoni, però intorno a noi è tutto più grande, c'è più spazio, diciamo. Siamo in un posto, in un locale molto grande, quindi intorno a noi c'è molta più aria, sono tipi alti, questo. Ci serviva aria perché eravamo costretti dai posti piccoli, quindi anche al nostro pubblico vogliamo regalare una dimensione nuova. Come si arriva all'auditorium? A parte alcuni cartelli disseminati in giro per Roma e nelle migliori città d'Italia, è pieno, anche se stai verso Ciampino, così già poi ci siamo arrivati così, partendo dai piccoli locali, abbiamo seguito i cartelli e poi siamo arrivati a fare l'auditorium. quindi è abbastanza semplice. Sì, è ben collegato. Ben collegato. No, come arriva veramente questo appuntamento? Facciamo degli spettacoli insieme da ogni tanto, io anche una volta all'anno, da molto tempo, sono 6 anni adesso, da molto tempo, e quindi questa volta volevamo farlo in un posto, cioè ogni anno lo facciamo in un posto, diciamo, suicidale, se si può usare questo termine, cioè, in un posto sempre più difficile e sfidante, quindi quest'anno toccava l'auditorio. 350 posti, abbiamo fatto il Monchi, il Vascello, l'Auditorium, l'anno prossimo dovremmo riuscire a farlo a San Pietro. Sì. Anche Esatto. all'Olimpico. All'Olimpio, giocando a pallone pure, Questo una squadra di calcio. titolo. Il titolo, diciamo, è un racconto del fatto che, di quello che ci piace fare, cioè di mettere cose molto basse insieme a cose molto alte. Insieme e vedere che succede. Freschi buffi, ovviamente, è una cosa molto alta, le trasmigrazioni dell'anima è una cosa un po' così, un po' sempliciotta, diciamo, la trasmigrazione dell'anima. Ci abbiamo lavorato anche tanto, i titoli precedenti erano molto improbabili, questo è quello che ci è sembrato più rappresentativo di noi. Non abbiamo capito bene se la parte freschi buffi o le trasmigrazioni dell'anima. Senti, ripercorriamo anche un po' il vostro percorso insieme. Com'è nato questo binomio? Tipo 6 anni fa Ivan faceva gli spettacoli di un doppio senso unico, che era la sua compagnia teatrale, all'Orologio, si entrava nell'off. Io scrivevo romanzi e basta, e poi cominciavo a leggere dei pezzi dei romanzi nei locali, così. Io andavo a vedere gli spettacoli di Ivan veniva a vedere perché scrive queste mie letture, e quindi abbiamo detto perché noi facciamo queste cose insieme, e poi abbiamo iniziato e ci siamo divertiti poi in realtà, e quindi abbiamo cominciato a farne sempre di più, sempre di più. Forse era la prima volta per Ivan che faceva dei concerti con le sue canzoni, o No, quasi. In quel periodo aveva appena ripreso a fare concerti, e quindi l'idea è stata quella di saldare insieme queste cose, anche perché avevamo delle geometrie nelle cose che facevamo abbastanza improbabili, che insieme hanno trovato una dimensione e una pulizia negli anni sempre maggiore. Io era la prima volta in assoluto invece che facevo degli spettacoli con il pubblico che leggevo. All'inizio leggevo semplicemente perché non c'avevo tempo di impararmeli a memoria, ecco. Ma non, un po' perché non lo sapevo fare, un po' perché non c'avevo tempo, quindi ho fatto le mie prime cose con Ivan 6 anni fa, perché vengo da tutt'altro ambito. Poi a un certo punto ci siamo separati, abbiamo fatto un anno quasi sempre insieme, poi siamo separati per non speccare quei soldi che arrivavano. Beh, no, diciamo che poi ognuno, come i bruchi che diventano farfalle, è volato per la sua strada. Claudio ha avuto riconoscimenti nazionali fortissimi, io anche internazionali. Di ridere per due, capito? Alla fine della serata c'era sempre questo sguardo della morte che ti... Però anche l'indipendenza ha avuto il suo perché, capito? Sì, diciamo. E poi ogni tanto ci riproviamo un paio di volte all'anno a fare queste cose. Cosa piace all'uno del lavoro dell'altro? A me piace tanto come Claudio lavora sulle idee, sugli scheletri, sulle intessiture, tutta una serie di esperimenti e di tentativi molto arditi che fa, arrivando sempre comunque a comunicare in maniera forte col pubblico. E a me di Ivan è diverso da me, nel senso lui Ivan secondo me è un poeta, ecco, c'è la sua componente forte in poeta, quindi come in quanto tale è molto imprevedibile, come ci mette, ti tira fuori le cose molto belle quando meno te ne aspetti, è meno razionale di me, cioè, se lo vedi sembra tutto precisino così, in realtà lui tira fuori cose dal corpo all'improvviso, ecco. Bene, e allora ricordiamo l'appuntamento con Freschi Buffi, altre trasmigrazioni dell'anima, reading con canzoni di Ivan Talarico e Claudio Morici a Roma, Auditorium Parco della Musica, venerdì 25 gennaio 2019. Un saluto e ringraziamento a tutti e due, un abbraccio e a presto. Un abbraccio, grazie. Ciao. Ciao.